Pensate, il sindaco di Milano 6 anni fa, all'inizio del suo primo mandato, era un'autentica ira di Dio. Ringalluzzito dal successo su quel povero uomo di Fumagalli, inebriato dal consenso popolare che è una droga di cui ai vertici di Confindustria si fa di necessità a meno, non le mandava a dire a nessuno. I suoi anatemi fioccavano su vigili urbani riottosi, infidi assessori, politici non abbastanza allineati e presidenti del consiglio comunale un po' troppo propensi al fai da te. Bastava il guido fatidico di o loro o io per riportare tutta codesta genia ai più miti consigli che si potessero immaginare. Certo, il creatore non aveva dotato Albertini di una voce leonina, non più di quanto lo avesse provvisto di una folta criniera, ma i suoi ultimatum suonavano lo stesso come ruggiti e producevano nelle savane municipali lo stesso effetto. E si capiva. Il sindaco, oltre che su un'ampia maggioranza in consiglio e sui suoi poteri istituzionali, poteva contare su un collegamento diretto con il capo in persona. Nella manifesta incapacità dell'opposizione di porgli qualsiasi problema, gli unici fastidi potevano venirgli dal suo stesso campo, e quelli bastavano a visitina ad Arcore per vederseli togliere di mezzo con la prontezza del fulmine e la radicalità di un'amputazione. Altri tempi. Nonostante il plebiscito del 2001, l'Albertini continua a perdere colpi su colpi. Ha dovuto ingoiare i razzi di Bossi e pazienza. Si è battuto senza successo per più di un anno con la Colli, una donnetta di cui solo un paio d'anni fa avrebbe fatto un boccone senza neanche dover andare in pellegrinaggio nella bassa Brianza. Si è rassegnato ad alzarsi all'alba tutte le domeniche per andare a fare jogging. Lui, un uomo che ha qualche pretesa di distinzione, insieme a quel maniaco salutista di Formigoni. E quando ha provato a ricordare al boss quella promessuccia solenne di 189 milioni di euro per lo sviluppo della città e delle sue infrastrutture, si è sentito rispondere senza ma che di soldi non ce n'erano e la smettesse per favore di rompere le scatole. E per dirglielo, non si sono disturbati nel boss in persona nel geniale Tremonti, i quali per rispondere picchi alle pressanti richieste del primo cittadino ambrosiano si sono limitati a mandare alla Camera un qualsiasi Giovanardi. Ce l'è stato male l'Albertini, ce l'è stato proprio male. Bastava per capirlo far caso al penoso squittio con cui ha risposto ai reporter che su quel rifiuto preferiva guarda un po' non fare commenti. Il ruggito leonino di un tempo si era ridotto a una specie di sibilo chioccio che faceva venire in mente al massimo una fuga di gas. Ma che mai avrebbe potuto dire d'altronde, poveraccio? Non si può fare il sindaco a vita. Se si desidera continuare la propria carriera politica in altra sede, magari a Strasburgo, bisogna fare i conti con quelli da cui dipende la relativa candidatura. Bisogna smettere di fare la ruota in solitario e misurarsi con gli equilibri politici della propria area di riferimento, sapendo che il percorso è irto d'ostacoli, la concorrenza è agguerrita e il capo per di più, i ruggiti altrui, li gradisce solo fino a un certo punto. E insistere troppo si rischia di ritardo, facendovi tirare fuori dal cappello qualcosa come una clausola di ineleggibilità. Perché un conto è strapazzare i trambieri, che a questo sono buoni tutti. Un altro difendere gli interessi della città e denunciare il gioco di chi è troppo occupato a promettere per poter poi mantenere. Tanto per eleggerli li abbiamo già eletti tutti e due e gli unici a rimetterci in definitiva siamo noi.